Ci siamo partiti con una nuova stagione di Wolf Trips, direi che possiamo subito iniziare. Del lupo. Per la serie buona la prima, avete già combinato disastri, casini, epocali. Cosa è successo? Cosa è successo? C'è stato un problema di cuffie, c'è stato un problema di... Va bene, no, va ma bene. C'è ancora il problema di cuffie. No, va bene. Senti? Io sento da una parte e dall'altra no, ma va bene. Buonasera, siamo tornati. Devi stare lontano. Giusto. Va bene, dai, siamo tornati con la terza stagione. Fa molto tipo serie televisiva, terza stagione di Wolf Trips. Allora, vediamo un po', salutiamo qualcuno. Iniziamo a salutare un po' di gente che abbiamo qua in studio. Salutiamo la Cree, che ormai è diventata la voce, speaker, vabbè, jingle. Okay, stop, basta, finito. Salutiamo Tony, che ha detto di essere al primo giorno di scuola oggi. Il mio amico Psycho. Il tuo amico Psycho, tra l'altro. Ma non c'è Psycho l'altro? Dipende da quanti l'amico psycho di Wolf Trips non ce l'abbiamo stasera. Sai che non ho capito che dici. Ma come no? Fabietto? Sì, no, ma non c'è stasera. No. Non lo vedo, quindi credo che non si materializzerà dal nulla, no? Invitarlo io. Giusto, bravo. Stasera bravo, detto che bravo tanta gente. Stato... Bravissimo. Poi salutiamo Deborah che è lì defilata. Salutiamo Daniele che è il nostro, possiamo chiamarlo Padawan, no? Che sta imparando, quindi il... Alias Manga. Ciao sì. Daniele, che tra l'altro farà anche lui e farà anche lui il nuovo programma di Radio Lupo, diciamo as soon as possible. Poi salutiamo anche Katia che stasera ci è venuta a trovare, dopo 3 anni è venuta finalmente a trovarci. Ciao Katia, la dottoressa Katia, mi raccomando. Intanto che vedo che Tony sta ancora cercando di capire, è il primo giorno di scuola veramente Tony però Ma sai che se io facessi regia stasera non sarei capace. Me le immagino. Allora, quest'anno, come ti anticipavo e ti ho praticamente sfracassato le balle tutta l'estate, no. Ascolteremo musica proveniente dal, diciamo, sottofondo del web, dell'internet, mettiamolo così. Non il lato dark di internet. No, underground. Cioè, guarda, penso che più underground di quest'anno non possiamo esserlo, perché andremo a cercare musica proveniente dalle net label, che sono etichette che producono musica in download gratuito. Quindi nessun compenso, ma è molta roba musicale, perché c'è veramente molto da ascoltare. Generi musicali quest'anno ne metteremo veramente di tutti i tipi. Quindi non... è un po' uno spaziare sì, tra i vari sì, generi. Sì, sì. Poi avremo le nostre solite rubriche, forse, chi lo sa, punto sì, di no, domanda. Sì, no, io penso di già iniziare anche settimana prossima. Va bene, ce la pensiamo bene, dai. C'ho il cervello, come dice qualcuno, a Ibiza ancora. Va bene, allora io direi che andiamo ad ascoltare il primo brano. E questo è un DJ che viene dalla Siberia, così almeno ci rinfreschiamo subito. Oh. E l'etichetta che però è della Bulgaria, quindi abbiamo fatto già questo giro. Cioè c'è un tour incredibile. Sì. Ha preso la transiberiana. Loro l'etichetta è Dusted Walks Kingdom. Allora, vi devo dire una cosa. Ho bisogno che migliori io la mia pronuncia in inglese, quindi cazziatemi. No, è andata bene. È andata bene? Quindi vi dico... ok, non vi risparmiate. E andiamo ad ascoltare il brano di King Shy con Circle. Vedi, mi sono già impastato con l'inglese, porca miseria. Magari la prima puntata. Thank you. Vabbè, l'inizio era soft. Lo sì, sai che. Sai che idea ho avuto? Che idea ho quella avuto? Quella di. Quella del suonatore di flauto con i serpenti. Sì. Dall'India, sì, è vero. Sì, sì. Comunque, giusto per chiudere il discorso, questa guarda l'etichetta che ti dicevo, Dust Walks Kingdom, della Bulgaria. Della che Bulgaria. Non ha molto niente da fare, cioè niente con la Bulgaria, come no, suono. Infatti loro producono da un tempo, pensa un po', hip hop, abstract hip hop, che... Boh, se ne fumano so, di roba. Che ne so, che ne sappiamo noi. E trip hop. Sì, vedi, i viaggi se li fanno sì, in Massive qualche Attack, modo. Via, dice. Sì, tipo Massive Attack. Vabbè, dai, abbiamo iniziato belli, belli tranquilli. Sì. E Tony, mi raccomando, ascolta bene le basi, perché mi sono, come si dice, speso tanto sulle basi quest'anno. Sì, guarda, che immagino che le hai fatte tutte te. Tutte io le ho fatte, guarda, proprio. Però... No. E direi che tu cosa hai combinato? Sei riuscita a fare qualcosa con questo microfono, sì, con le cuffie? No. È che c'è stata un'invasione sulle mie cuffie e quindi... L'invasione qualcuno delle mi tocca cavare qua nelle mie cuffie. No, perché abbiamo tutti e due i jack bianchi, no? Allora ero convinto che era il mio. Il jack bianco io lo vedo nero, il jack. Sì, no, la, vabbè. Cambia, spacciatore, psycho. No, ma il jack... Va bene, intanto che devo mettere la sigla di Raimondo e Vianello. Sì, sì, altro che... Quello sì che sta per va bene, va bene. Intanto che qua ci si discute di questioni, sembrano quasi casalinghe, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, che è sempre di questa etichetta che vi dicevo prima, della Dusted Walks. Il brano è del 2013 ed è di due DJ che si chiamano Tab e Anitech, che producono molta musica elettronica. In questo caso siamo sempre sul tranquillo andante, dai, diciamo sullo down tempo misto elettronico. Andiamo ad ascoltarci quindi Rare Beat, Beard. Ogni tanto abbiamo ancora, dobbiamo ancora rodarci, dai. Non so cosa sia successo, devo dirti la verità. Probabilmente il programma oggi non è ancora dalla mia parte. Vabbè, questo pezzo qua stavano dicendo che è di una collezione, sempre di questi DJ, Tab e Anitech. Dimmi tutto. Com'era il titolo in italiano? Il titolo in italiano non lo so. Era, allora, in inglese è Rare Bird. Te l'ho visto. L'ho detto io prima. Vabbè. Ma scusate, ma dimmi tutto, i contatti non li abbiamo dati. Vai, vai. Allora. Ne abbiamo tantissimi di contatti da dare. Ma io non neanche trovo uno. Più il mio foglietto. 338-222-8983. Sì, per sentirci in diretta, sì. Poi, allora, abbiamo il Facebook e l'Instagram che sta seguendo Katia in questi giorni. Ma anche c'è la diretta su Instagram, no? Spero di no. No, la diretta su Instagram è un doppio colpo no, per la gente. Però diciamo che la diretta su Facebook, sì. Su Facebook, sì. Salutiamo chi ci sta guardando. Vedrà vabbè, non so cosa vede. Vedere. Non lo voglio neanche sapere. Stasera ho messo anche la maglietta nuova. Bella, sì. bella. C3PO. Sì, anche se non sono un fan di Star Wars. Ma cos'è? Uno dei due robottini. No, di io di C conosco C. Tanto volevo salutare Daniele che ci ha raggiunto i microfoni. È un po' più alto di me. Sì, sono cuffiato anch'io. Quindi ciao a tutti, eccoci qua. Dobbiamo trovare la giusta posizione. Sennò mi chino qua sulle ginocchia. Quello sgabellino non è molto stabile. No, però, metto qua, mi appoggio, faccio anche flex i muscoli. Aspetta, però. C'è stato un attimo di tremolio qua della terremoto. Si è agitato lui? No, lui è tranquillissimo, mi sembra molto tranquillo. C'è una bella voce. Grazie, molto sì. Calda. Tra l'altro ho visto un video di un suo programma vecchio e porca miseria. Cioè, quanti anni ha lui, scusa? L'anno scorso, l'interrogazione. L'anno scorso. Ma porca miseria in che senso? Facendo spogliarello? No, quello era un altro programma, ma ne parleremo un'altra volta. Qualità del programma è molto bella. Diciamo che sei una geisha. Mi piace il Giappone, ma non fino a quel punto. Vabbè, intanto che abbiamo anche Katia che ci disturba con le foto, stasera fa la disturbatrice. La paghi dopo, chiaramente. Sì. E andiamo a ascoltarci ancora un altro brano di questa etichetta che a me piace tanto. Ma bella anche questa base, devo dire. Bella, ti piace? Ok. Sì. Questa allora è approved. Ricorda molto le mie sonorità. Tony approved. Approved. Andiamo a ascoltarci il prossimo brano che è di... ciao. Allora, lui viene da USA, da USA. USA. Il brano è del 2007, quindi andiamo parecchio indietro. Ed è quel genere abstract hip hop, quindi scopriremo forse che cos'è. Magari siamo anche i primi a metterla in... L'abstract hip hop. E io voglio complicare le cose. Vai. Cosa vuol dire USA? Qual è il... Oh, madonna. Dai, l'acronimo di... Allora, se tu prendi una canzone tipo Born in... USA. Ma è l'acronimo di... United States of America. Bravo. Eccolo qua. Però ci hai pensato un po'. È un pochettino, sì. Andiamo a ascoltare il brano che è di Pneumatic, Another Drowning Case. Salirà così? Our lives that causes upheavals and shock. Più che abstract è molto, diciamo, sperimentale, ecco, mettiamola così. Sì, è molto strano. Secondo me è tipo l'hip hop mischiato un po' alla trip hop, ecco, mettiamola così. No? Boh, sì, non lo so, è un po' una roba strana, dai. Sai che ogni tanto bisogna sperimentare un po'. Beh, qualcosa di diverso. Quest'anno ancora di più. Sì. Poi magari non ci piace, la cassiamo via. Secondo te ci sarà anche musica che arriva dal Giappone? Claro. Sì. Probabilmente sì. Ma avremo sicuramente... Oggi c'è su quella giapponese. No, colpa mia. C'è manga. Tra l'altro doveva venire anche il... tu non so se te lo ricordi, il fautore di Otaku Toki. Te lo ricordi? Gray. Ah, Gray. Ottimo, direi. No. Pubblicità. Vabbè, stavo dicendo, comunque quest'anno, a parte la roba giapponese, passeremo anche tanti artisti italiani. Ah, sì, beh, infatti perché... avremo molte interviste con produttori di musica italiana di vario genere, di vario genere. E tu volevi dire qualcosa prima, ma no, mi facevi cenno, no, ho capito male. Io non so cosa tu abbia bevuto stasera. Acqua, guarda, si può vedere, possiamo farlo vedere a tutti. Ma io non lo so, perché io a scuola, nelle bottigliette di acqua, in realtà non c'era acqua. Ma ketamina. No, c'era Sambuca. Ma è buona, la scuola con la Sambuca mi sembra un buon... Porca miseria. Comunque devo dire che queste basi sono davvero molto molto interessanti da sentire sotto. Belle, belle, sì, belle, sì, belle. Decisamente. Mario Biondi. Shalala, shalala. C'è un po' troppi capelli per essere Mario Biondi, però. Ecco, a proposito, ce l'aveva avuti. A proposito, Tony, il prossimo brano si chiama It's Dominating, che non so se si pronunci così, io lo lancio così. Ed è un campione. Ed è un campione di un brano di Duke Ellington. Vabbè, famoso jazzista. Bravissimo, eh? Bravissimo. Il brano è del 2013. Questo artista qua si chiama Proletar ed è, secondo me, una bomba. L'ho visto anche, diciamo che ha già fatto un po' il salto di qualità, nel senso è passato comunque dalle net label alle etichette alle anche major, un po' più grandi. Major. Ma andiamo a ascoltarci questo brano perché è campionato, è vero. Cos'è, un loop o continuo? O... Bah, adesso ascoltiamo. Chi dai. Lo potrà mai dire? Chi lo potrà chi mai lo dire? Aumentiamo anche il beat, va. What a do, da, da, do, da, da, do. What a do. What a do, da, da, do, da, da, do. What I do, what I do, da da do, da da do. Sentite il trombone. Potremmo fare, sai che fanno la cena con delitto, noi possiamo fare, sì, la radio con delitto, sì. C'era una persona che stava per morire qua in diretta. Tra l'altro io ho fatto alcune cene con delitto e le ho fatte, quindi, sì, se volete anche canovacci. Ah, da esperto, seguire quindi... assolutamente sì, mille sorprese, non rimozione di cadaveri, ma quello che viene prima, sì. Ah, il cadavere me lo lasciate qua, va bene. proprio sì, che sembra, crudeltà. Sembrava di essere nella Chicago anni 30. Hai visto. 32. Non 32. È una parolaccia. Non è... Cazzo, what? Chicago anni 30. Ah, okay. Chicago è a Bari. Fino a là devo andare. Ma scusate, questa me ne vado. Io me ne andrei, però vabbè. Dai, la prima puntata siamo ma un sì, po' così. No, no, ma direi che siamo già partiti col piede giusto, eh. Ma sì, proprio... tirando. Mamma mia, mamma insomma, non è che dobbiamo fare un programma moscio, eh. No, ci sta. Comunque, allora lui era Proletar. Secondo Katia me è un po' inquietante in questo momento. Con un telefono in mano che dice: mica il moti minaccio, mo arrivo a farti la foto. Sei serenissimo. La vedo serenissima. No, sai che un rapporto odio con le telecamere, con le fotocamere, okay, tutto ciò che è... Allora rimangio le mie parole e evito di dirlo finché non possa essere colpito io in qualche modo. No, tranquillo. L'ho già fatta la foto. E chi è che ci arriva fino là sopra? Mi sembra veramente altissimo, altissimo. Beh, comunque, dai, per adesso dai un pezzo, uno dei pezzi migliori che abbiamo messo questa sera. Dai, va bene, va bene. Proletar, te lo ripeto, è un artista che sta iniziando a fare un po' di successo. Ma si basa sempre su queste cose qua. No, ha fatto un album, quest'album particolare con tutti i richiami al l'ha chiamato swing hop, quindi okay, sì, un genere così, però le altre produzioni sono magari più elettroniche, una roba un po' più particolare, e lui viene dalla Francia. Ne sentiremo ancora, sicuramente metteremo altri brani sempre suoi. Allora io direi che chiudiamo la parte di questa etichetta Dust It Walks, che a me piace tanto, devo dire la verità. Mi sembra che già dalla parola, già come lo dice Dust It Walks. mi piace parecchio. Andiamo ad ascoltare c'è un sorriso. Un altro brano che viene sempre dalla Bulgaria, di un altro produttore della Bulgaria. Quest'anno sono fissato con la Bulgaria. L'anno scorso ero sempre con la California. Dove che andiamo, andiamo in Bulgaria. Sì. Dove chiamano? Sì. Tu sei anche cinofilo? Poco. Sono più serie televisivo-filofilo. No, perché non ricordo se era in Bulgaria o era da qualche altra parte che avevano fatto quel film tipo Hostel. Infatti dicevo, sì, va bene, andiamo Praga. In Bulgaria. A Praga. Vabbè, diciamo che serie TV stai guardando? Ecco. Iniziamo, finiamo dopo domani. No, l'ultima, dai, l'ultima puntata che hai visto. Allora, sto guardando la settima stagione di Homeland. Non so se ne avete mai sentito parlare. No, non ne ho mai sentito molto parlare. Bella sul antiterrorismo, spionaggio. Il paese delle case, traduttivo così. Ma cioè, tu non è che devi fare Google Translate live. Magari trovo un nuovo lavoro, che ne sai. Va bene. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, che è Violent Public Disorderats. Questo sembra una parolaccia. Traducimi questo, dai. C'è un disordine di... ecco, dell'Az. Però diciamo che il titolo è Electric Storm, quindi è tempesta elettrica. Sì. Vabbè, andiamo a ascoltarci. C'è il disordine, dunque c'è tutto un disordine di Violent Public, Violent Public, yes. Quindi pubblico violenza anche. Giusto. Il pezzo comunque non è tanto violento, andiamo a ascoltarlo. Wall Street. Alla ricerca delle hits del futuro. Siamo tornati dalla piccola pausa che ci siamo presi, dai. Voi siete andati a farvi la vostra pausa per polmoni, chiamiamola così. Allora, io sono rimasto qua. Tu sei rimasto compagnia. Qua, Daniele, diciamo è rimasto pausa qua. Ossigeno, dai. Sì, va ce l'abbiamo il numero WhatsApp, ragazzi? 338-222-8983. Non l'avevi detto prima? Come no? Detto prima? Sì, detto testimone. C'è anche lo streaming, quindi... C'è un ritardo di 14 secondi dello streaming. Sì, ma mi sa che qua è 14 minuti, perché l'ha detto molto prima. No, non c'è più il foglietto, però lo so a memoria. Ah, okay. Come ho detto, 338-222-8983. Sì, che se ne sa, io. Hai visto, qua la classe, mica acqua. Comunque, abbiamo cambiato ambito, etichetta e tutto quanto, anche musica, dai. Siamo andati un po' più sulla dub, possiamo dire, più o meno. Adesso andiamo a Dresden, questa etichetta qua è di Dresden. Bella questa base. Ed è della Germania, Dresden in Germania. A Dresda, o in un'altra città? Dresda, allora sarà, è scritto Dresden. Poi se si pronuncia Dresda, sarà Dresda. Non magari lo so. In italiano facciamo Dresda. Andare Google Translate. Dai Google Translate. Dresden. Dresden come le Dresden Dolls, non so se le conoscete come gruppo. Non no, lo conoscete? Sentito, Coin no, Operated Boy, sì, tipo 15 anni fa facevano dei pezzoni, ma sì, super, sì, super, sì, super. Magari l'ho già ascoltata, ma non... Sicuramente, se ti faccio ascoltare sì, la canzone la, la riconosci. Tedesche. E sono tedesche? Non ne ho idea, però si chiamano uguali. Oh. E l'etichetta è Phono Cake, quindi? Pugliese. Come la traduci Phono Cake, visto che... Torta sonora. Torta di forno, non so come si chiama. È fono. Ah, fono, io ho capito forno. Cake, venuto in mente, c'ho fame, ragazzi. Vabbè, il pezzo di non prima... Non sei l'unico, portateci cibo! Il pezzo di prima era di Cali, che non è... Amico di Cali. No, non c'entra niente, si chiama Fall in Love. È un bel, innamorati. Un bel giro. Innamorati, bravissimo. Il pezzo dopo invece... Ma quanto ne sai? L'artista dopo invece mi sta molto simpatico, lo saluto anche perché... È italiano? È italiano, no. E probabilmente lo avremo anche in salutiamo una delle prossime puntate. Anzi, tolgo probabilmente, abbiamo già organizzato gli inciuci vari. E lui è Michele... Sotterfugi. Nel senso che abbiamo organizzato Michele una puntata... Sotterfugi? No, si chiama Michele Panf Mantovani. E il suo progetto in realtà si chiama Push... Qua ti voglio, Qua ti voglio, a ferma... Il progetto si chiama Push Again New Fakes. Lo leggi anche ancora qua. La nuova? Falsi. Fakes. Fakes. Schiacci le nuove. Push Again sarà spinta contro. Secondo me è tipo lancia nuovi falsi, non lo so. Dopo glielo, scusa, glielo chiederemo. Ah, è l'album di Fiorello, nuovamente falso. Scusate la cazzata. Nuovamente Deborah. Falso. È un album di Fiorello, di solo le canzoni rifatte con le voci di canzoni. Ma quando l'ha fatta? 93. Ah, ok. Invece questo brano è del 2012. Sempre etichetta questa che ti dicevo, Phono Cake. Phono Cake, che non viene da Bari, ma in realtà viene da Dresden. Bene, io direi che ce l'andiamo a ascoltare e poi dopo rientriamo allora, qua e vediamo dub, un po' che è un pezzo dub. Da bo. Adesso lo sentiamo, dai. Da bo. Buon genere, da bo. Andiamo da bo a farci una birra. We'll be right back. Questo te lo dicevo che non era dub, infatti non mi ricordavo bene il genere. Questa è più elettronica. Questa dai. È da 2 novembre, ragazzi. Da 2 novembre è un po' fredda, dai, dai. No, però il brano effettivamente si chiamava Dislike. Te lo dico io, si chiama Dislike. Che non piace praticamente. E poi probabilmente era quella l'idea che ha avuto. Non mi piace. No, però devo dirti la verità, le altre produzioni, ha fatto anche un remix ultimamente che ascolteremo breve, che sono molto belle. Non sono male. Va bene. Tu volevi dire, tu sei sempre lì, fai pollici, fai cose. No, ha chiuso la porta, Katia. Giusto, lasciamo fuori i cattivi pensieri. Mi sembra giusto. Sì. Lasciamo fuori i problemi. Adesso ecco. ho paura della prossima traccia, perché... Perché? Perché? No, non lo so. Poi vestito, c'è la maglietta nera. Good with me? Allora, no, quella è la base. Se l'avete... No, questa è Tropical la base. Tropical Love. Questa qua è la base, sì. Sì. Questa qua che senti adesso. E l'altra, quella che ho detto prima. Bravissimo. Cambiamo ambito, cambiamo genere e cambiamo un va po' bene. Tutto. Va bene così. Proprio esageriamo. Andiamo ad ascoltare un'etichetta che. Guardo tutti dall'alto. Quasi lei tutti. Ci guarda. No, infatti lui non lo puoi guardare dall'alto. È troppo in alto. Quello è impossibile. Se uno volesse vedere, diciamo che sulla diretta di Facebook. C'è lo spettacolo che va avanti. Tutte le cavolate che stiamo facendo sono tutte registrate e rimarranno per i posteri. Sappilo. Ai posteri. Ai posteri. Sentenza. Bravissimo. Stavo dicendo, passiamo su un'altra etichetta. Si chiama Block Sonic ed è un colosso, diciamo, delle net label, perché racchiude diverse etichette di New York e pubblica solitamente genere hip hop. Infatti quest'anno io mi sono un po' hip-hop-ippozzato. Ma attenzione, hip hop quale? Lo sentirai, perché loro loro pubblicano hip hop, cioè non pubblicano trap o altre robe. No, assolutamente okay, no. Già mi piace. Tra l'altro ho visto che hanno fatto anche loro un podcast dove mettono la loro roba, quindi sono a tutti gli effetti dei nostri concorrenti. Vabbè. Però meritavano. Ma diciamo che le etichette normali che si fanno i propri podcast, beh. Come DJ. Sì, magari fare un mixato delle produzioni dell'etichetta. Ecco. Tra l'altro sta andando proprio di moda adesso la questione del mixato, del podcast, della puntata. Sta prendendo veramente molto piede, non so se ne sei accorto. Beh, diciamo che il fatto che ormai l'on demand è quella, diciamo, la cosa alla quale tutti stiamo andando incontro, quindi alla fine della fiera uno deve anche un po' modernizzarsi in quel senso. Sicuro. Come parla sto ragazzo? Mamma mia. Anche Tony si è modernizzato. Sì, ascolta, io direi lasciamo Tony che fa il programma. Ma Nerd Corner, e tu ok, io vengo di lì a fare ok. Non lo so quanto ci guadagni, a lui probabilmente no, dai, il nostro psycho. Se non poi non so se mi metto con così. Gray, che non so cosa potrei combinare. Beh, ottimo, direi. Sì, no. Ti sei tenuto il microfono? Che, in che senso? No, scusa. No, scusa. L'area. Diciamo no, non volevo. Vabbè, stavo dicendo, quindi andiamo ad ascoltare i prossimi artisti che si chiamano. Mo te voglio. Si chiamano CMH Creative. Ok, sì. Creative. Okay, non lo so, Creative. Sai cosa mi ricorda? La Sound Blaster della Creative. Sì. Ok. Facciamo pubblicità, insieme. Ma no, ormai guarda una roba morta e sepolta quella lì. Sì, io me la ricordo sull'Amiga 500. Io non ho ancora nato quando c'era l'Amiga 500, penso. Dimmi cosa c'è. Ma Fabio? Arriverà. È uscito fuori così Fabio. Ma Fabio? No, perché giustamente stiamo aspettando anche il nostro stiamo Fabione. Stiamo aspettando Fabio. Fabione, Fabietto, diciamo, non Fabio Psycho, ma l'altro Fabio. Che salutiamo comunque Fabio Psycho. Sì, salutiamo anche la Sabri. Giusto, bello il titolo di sta canzone, mi piace. Who is me? Chi sta con me? Chi sta con me? Bravissimo. Chi è con me? Chi è con me? Andiamo ad ascoltarlo e mi dirai un po' che tipo di pop secondo te propinano. Non lo so che spacciano. E vediamo che cosa fanno, dai. Yo, I'm back with a vengeance. Coming to school, y'all, like I'm back from detention. Recognize me well, true tales. I spit every line I exhale. With the truth, deal, no bullshit on the scale. The only way that move is my body mass. I'm trying to keep it all good till I'm in a body bag. Toe tag with my name on it. My coolness doesn't show just how bad I want it. To make a mark in this culture called hip hop. Without the flashy jewel, sexy ladies or big bottles of goose or some rock. My only concern is mics to rock. I'm trying to create something hot to evade your blocks. So when they ask who that, you could be proud and say creative, moco rapper. New York native, yo. Love it or hate it, but I wanna make it worthwhile. So when you go, more play my shit, you gotta turn it up. Who with me? I'm tryna bring back back some of the essence. Showing all these daughters that we steadily progressing. Hip hop fall from dead, she was just resting. Now she coming back with a vengeance. Tell me who with me, who gonna show love instead of hate. But everybody can get a piece of the pie or the flavor. We could all rep together for a better cause. Better late than never, dog. I'ma do my part while I patiently wait to see who's with me. The line might be short, but the folks that are down and ride go ham like bull. I know a few killers will lay you on the ground, not lying in white chalk, but I'm not messing with them. Me with riff rat cats, I'm only chilling with M. He only wild out under certain situations. So when that blue moon's out and dudes be acting insane, I'm only breaking one fight. I like the Lake Mills Lane, not a brawl. That's why I can't fuck with all of y'all. Yeah, we still cool, but I know the rules. Cause when your ego's mass off, you're gonna wanna bust off just to show that you that dude, not the cross, man. I understand, but listen, my ego's like cement. You can talk all you want, but it won't make a dent. I got bigger shit to worry about than your redundant threats. Only sacrifice my life for my fam, and that's a bet. Who with me? I'm trying to bring back some of that essence. Showing all these daughters that we steadily progressing. Hip hop fall from dead, she was just resting. Now she coming back with a vengeance. Tell me, who with me? Who gonna show love instead of hate? But everybody can get a piece of the pie or the flavor. We go all rep together for a better cause. Better late than never, dog. I'ma do my part while I patiently wait to see who's with me. Hands up, yeah. If you with me, then put your hands up, yeah. If you with me, then put your hands up, yeah. If you with me, then put your hands up. If you really ready to ride, then put your hands high in the sky. If you with me, let it bounce one time. If you with me, let it bounce two times. If you shy, I'ma let that joint slide, yeah. Yo, you know how it goes. Got friends, got foes, got acquaintances. You show love, but hate on a low. It's the same everywhere I go. If you're not helping me succeed, then what you here for? I'm trying to live a life with a purpose. All this love I got inside, I'm trying to show it on the surface. So I go and show support to all the folks I feel are worth it. And hopefully they show it back, cause they know that I... Allora, Tony, che mi dici? Yeah, yeah, 1-2, 1-2. Dai, va bene, va bene. Approvata la Block Sonic, dai. Sì, beh, un pezzo così ci vuole, cioè. Bellissimo. Poi mi piace dire anche di passare generi del genere. Generi del genere. Del genere. No, perché siamo ritornati alle origini qua, ragazzi. Da una cosa nuova come la Net Label, una cosa antica. Old school. Comunque avevamo la nostra speaker Cristina che voleva fare un appello. Vabbè, facciamoglielo fare, dai. Allora, guarda, ti metto il bianco. Vai. No. Per piacere, almeno un sottofondo grazie. Bene. No, allora, stavamo parlando di modelle. Ma scusami, ma non ci siete solo voi? Pure io voglio la mia parte. Ma ti devi accontentare. No. Adesso stai parlando di un programma che non c'entra con noi, anzi, poi arriverà dopo, ma... ho capito. Ma non è che abbiamo scelto noi sta cosa. Sì, domenico, no, ma anche io. Allora, io apro un contest, ogni settimana viene qua uno... Noi femmine lo giudichiamo. Fate. E chi vince poi rimane qua una puntata intera. Sì, va bene, non c'è problema, mica siamo gelosi. Cioè, qual è il problema? Ma va bene? Io un po' sì. Io no, guarda, non... vero? Vabbè. Io sono... Cominciamo. Eleggiamo il più bello di Wolf Trips. A posto proprio siamo. Poi vince una cena con noi ragazze. Io non pago niente. Certo, pagano loro perché... Vabbè, chiusa la parentesi. Sei a posto? Hai detto tutto? Quindi AAA cercasi figo per contest. Sai che ci cazzano sì, questa però cosa? Adesso cercasi no, anche nuovi timpani. No, sono anche lontano. Meno male. Cercasi anche nuovi timpani adesso. Sì. Ce l'hai un po' sfondati. Cerchiamo però modelli che hanno bei timpani da poter... donare. Andiamo avanti con un po' di musica. Qui stiamo raggiungendo i limiti della fine stagione scorsa. No, ce n'è ancora, guarda. Devi sapere. Allora, l'anno scorso facevamo la prima ora seria, la seconda ora c'era il delirio. Ok, perfetto. E mi sa che invece abbiamo iniziato proprio che già da... ma io è il contrario, fai la prima ora di delirio e poi la seconda no, eh? Dice no, che non è commutativa. Dai, ma mancano ancora solo 10 minuti, quindi per diciamo che quasi un'ora è andata. Vabbè, dai, torniamo un attimo seri, andiamo ad ascoltare un altro brano, sempre della Block Sonic, spero... Questo però in realtà è breakbeat, cioè è sempre estratto comunque da questa etichetta che produce molti pop, ma... si scosta un po' dalla musica hip hop. Il progetto viene da Portland, Ah, ok. Che non so. Sì, la, sulla nord. Portland. Alto... Portland mi ricordo che sono i Portland Trail Blazer, che sono squadre di basket, ma per il resto, cioè. Sì, la mia conoscenza di ma ciò che comunque sarà. Io ve lo dico, sarà sicuramente nel continente. Nero. No, tipo. No, Nord America. Nord America. E nel. Come si chiama? New England. Dovrebbe essere nel New England. Diciamo americano. Che è sulla terra. Sulla terra. Anche sul mare, anche sul mare, credo. No, sì, sì. Portland. No, no, dovrebbe essere una città di mare, Portland. Io volevo fare una citazione che può capire solo una persona. Bio, ma terra. Vabbè, dopo questa che non la capirà nessuno, ma chi la doveva capirla l'ha capita. No, no, cioè, io mi oddio. Devo ribellare. Io mi devo ribellare, Katia. Allora, già che sei qua a fare le foto, ok, c'ho almeno falle bene, ti prego. Cioè, hai stroncato una carriera. No, no, no, lasciala lavorare. È una professionista e sta lavorando no, seriamente. No, levala subito. Vabbè, intanto che voi litigate, lanciamo il prossimo brano, dai. Get funky! ritornato il Capitano Uncino, eh. Ogni anno sta storia. Ma dovevi fare così allora. Guarda che cavolo. Si sono sentite le ultime parole, Tony. No, non si è sentito, no, no, no. No? No, no, no, no. Cos'è, cos'è che ho detto? Sul calcio? Sì. Ma chi se ne frega del calcio? Cribio. Ma io sto parlando con... Mi consenta. Con... Mi consenta? Insomma. Sto parlando con Daniele. Sì, ma hai sbagliato il programma, il Mary 7 è quello che fai ma calcio. Ma io stavo parlando fuori onda. È vero, no, c'ha ragione, fuori onda. Sì, comunque porta in alto la mano, era per attirarmi. Siamo in onda. Mi è venuto in mente a chi assomiglia vai. Questo beat. Fatboy Slim mi sembrava, sì, no? Se ne vero? Sì, sì, vero? Sì. Bravissimo, è vero, è vero. Perché è un misto tra acid, hip hop, c'era qualcosa, un po' di drum hip hop e anche la voce, no? Beh, così. Ma il Fatboy Slim sì. prendeva i suoi campioni da pezzi hip hop, dunque... È vero, bravo, bravo, è vero. Grandi pezzi, grandi pezzi. Cioè, beh, Right Here Right Now, per, cioè, quando ero bambino era una roba quando spettacolare. Quando ero bambino già andavo, ero già vecchio. Intanto c'era il 90, Deborah, 98, 99. Vieni pure, quando ciao. C'era la canzone quella tipo di Battisti, le prime Battisti, lui era bambino. Ok, perfetto, benissimo. O no? Eri in fascia. No, no, no. No, anch'io quello so... Beh, sono stato bambino anch'io, eh. Non è che... Vabbè. No, vabbè, quindi non volete parlare di calcio, giusto? Non parliamo, no, di calcio. Ma no, no, stavamo parlando prima fuori onda. E parlate non... fuori onda. No, vabbè, io dico, non volete parlare di calcio. Senti, ma scusami, tu l'anno scorso, dopo la prima ora di programma, sì, scusate. Io? Sì, sì. Io, non facevi dimmi. Mica tipo, sai, la... non lanciavi tipo una sorta di le previsioni del tempo? Non lo facciamo più. No, sabato. Non ce l'ho più. Ah, non ce l'hai più. Non c'è più tempo. L'anno scorso c'era un telefono. Vabbè. Dalla prossima volta lo recupererò. No, dai. Ma no, vabbè, non, cioè, non è un problema, non è un problema, non ti preoccupare. Recupero. Cos'è che ce l'avevi scritto? Eh sì, sì, sì, c'aveva il canovaccio, il gobbo c'aveva. Questa sera non c'è il gobbo. Ma ritornerà il gobbo. Però occhio a parlare di gobbi che torniamo a parlare di calcio. No, di no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Va bene, vabbè, va bene. Io siamo, direi che la... siamo due juventini, non è che... La prima ora ormai si sta concludendo. Che bella, dai, è andata bene. È andata bene, è andata bene, dai. Possiamo dire che non ci... Allora, senza lode, senza infamia. Senti sta base molto ibizenca. Molto... La piazza. Sì, quasi quasi facciamo un programma di basi, direi. Sì. Nessuno parla, solo ma base che vanno. Un programma di ragazzi? Base, proprio di quelli. Com'è andata l'estate, ragazzi? Ah, è vero, giusto. Abbastanza così, così, dai. Te dove sei stato? Vabbè, l'estate? Io sono stato alla Maddalena 8 giorni, quindi. In carcere? No. Non ho stato. No, non so. Ma scusami, qua a Maddalena sono. Voglio somma. Morire. Esatto, sì, 8 giorni per girarla tutta. È stato... a passo molto lento. Ma hai fatto lento. La diga del pan perduto anche? Assolutamente sì. Figo. Ha fatto tutto il giro, ha partito d'acqua praticamente e poi si è perduto. Emozionante. Benvenuti ai turisti per caso. Io direi che concludiamo la prima ora, facciamo un po' di pubblicità radiofonica e poi torniamo dopo, va? Okay. Che è meglio. È meglio. Wall Street, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Abbiamo perso una parte dei componenti perché stanno parlando con un cane. Adesso con la maglietta di Star Wars potrei dire che sono io al solo. Adesso dai, ti lancio un po' un pezzo di grafite, sappilo. Una lastra di grafite ti lascio. Vedi che non lo sai? No. Qua mi casca l'asino. Non sono così nerd, giusto. Comunque, come abbiamo, il nostro amico. Abbiamo fatto il giro di boa e abbiamo cambiato di nuovo etichetta. Questa volta andiamo in un'etichetta italiana che, devo dirti la verità, è quella che mi ha ispirato per fare il programma. Interessante. Si chiama Equite Bump ed è un'etichetta di, non mi ricordo dove, però andiamo Irpinia. Quindi nella parte del Campania. Avellino, così, sì, Avellino. Avremo, nella prossima puntata, avremo un'intervista con loro. In diretta o registrata? No, in diretta, okay. Sicuramente. Chi è che paga la telefonata? No, esiste una struttura radiofonica. Paghiamo noi, Non è che... No, beh, adesso con i mezzi che ci sono fa tutto gratis, cioè, ti sembra gratis. Tutto con l'internet. Abbiamo ascoltato un pezzo che è dub. E loro sono i BR Stylers con il pezzo Japlan del 2008. E purtroppo a me piacciono, cioè piace un casino questo genere, questa musica, però ho scoperto che si sono sciolti. Poi veramente, infatti io ho anche scritto per un'eventuale intervista, ho detto guarda, scusami, però si sono sciolti e sono nati diversi sono nati diversi progetti sempre sullo stile dub. Uno sullo stile dub e anche loro poi dopo avremo in intervista. Vabbè, siamo molto avanti. Più reg, vabbè, reg, dub, siamo lì. Cioè beh, questa etichetta in particolare produce molto dub, reg e solitamente produce soprattutto artisti italiani. Infatti questo gruppo comunque è di Pordenone, quindi mi piace l'idea proprio che... È famosa per... beh, quella zona lì c'aveva... Ultimamente, non so perché, ma un sacco di gente... che fa musica che a me piace viene da Pordenone, non so come, ma c'è questo agglomerato, questo concentrato di artisti. È vero, come a Torino c'era la scena elettronica, diciamo. Esatto. Ma Pordenone è un po' morta, però Bologna e Pordenone. Beh, Bologna è già dai tempi delle Posse che comunque è un centro. In questo periodo dico trovo molti artisti italiani sia di Bologna che anche di Pordenone. Sarà una buona aria, sarà una delle province più vivibili d'Italia. E questo brano era estratto, penso, da una compilation che era Italian Dub Community Volume 1. In realtà è stata l'unica che hanno fatto. L'unica che hanno fatto, però l'idea era molto carina, molto carina. Il prossimo artista invece che ascoltiamo è, secondo me, è spettacolare. Si chiama Mou. Come Mou. Le caramelle. Bravo, forse Mou intendo. Mou, scritto sì. Mou, ma è scritto Mou. E il brano è un misto, si chiama Le mani sulla schiena. è sempre dub o reggae. Non lo so, io sinceramente non conosco bene, devo dirti la verità, la differenza. Sì, sono delle sfumature particolari della dub. Non sono reggae. Proprio un esperto del genere. Sì, perché poi c'è roots, c'è la dancehall, è quella più facile da ballare. Sì, ecco. Sì, sì. Tra l'altro c'era un programma in radio anni fa che faceva questo genere di musica ed era spettacolare. Era un certo DJ Lello che suonava anche in vari locali, un cavallo sì. Così che metteva solo lui metteva dancehall, però mi diceva ma la dancehall è mainstream, invece la dub è molto è più ricercata, però veramente non so che fine abbia fatto, mi spiace che abbiamo perso di andato vista. In Giamaica, ma può essere. Andiamo ad ascoltare questo brano quindi di Mu, Le mani sulla schiena, e lui ha un po' un accento anche quasi napoletano, non è male. No, non lo mette molto nello slang, però secondo me nell'accento un po' ce l'ha. Vabbè. Andiamo ad ascoltarlo. Cambiali o contanti, parti indelebili, indispensabili. L'universo come sempre lascia segni indecifrabili. Cos'altro potrei dire se non morire quasi del tutto cercando il mio respiro? In un secondo il tempo è brutto, oltre il limite il gioco si fa serio e mi ritrovo a contemplare Mayday, l'impossibile. Mai dai sarai, nell'ombra che mi sposta come sempre troverai le mani sulla schiena e mi mancherai, come le notti lacrime di un sogno in fondo spento. Mai dai sarai, nell'ombra che mi sposta come sempre troverai le mani sulla schiena e mi mancherai, come le notti lacrime di un sogno in fondo spento. Lascia che respira fino a che non deve catturna. Questo è quando non è tempo per me, mo. Da solo attendo in volo, il sole brucia quando ti avvicini, il freddo è un altro luogo. Aspetto che ritorni quando tutto in fondo è un gioco. Sembra sempre di sentire piano un dolce suono. Cos'altro potrei dire se non morire quasi del tutto cercando il mio respiro? In un secondo contatto oltre il limite il gioco si fa serio e mi ritrovo a contemplare Mayday, impossibile. Crossover di brutto, sì, ha cambiato completamente. Oh, ma se io c'ho una voglia bella, ho fatto venire una voglia incredibile. Tutta questa musica, hai visto? Te l'ho detto che quest'anno avremmo proprio fatto un programma bello. Questa musica c'era già, capito? No, assolutamente va scoperta. Questa qua è da poco tranquillo, sì, proprio la spintina, ma senza violenza. Te lo appoggio, no, più tranquillo di così. Te lo appoggio. Comunque, vedi, stanno dicendo effettivamente che è un po'. Allora, lui è del. Aspetta, che me lo sono segnato. 2007, secondo me è un po' anticipato i tempi, poi dopo diciamo l'hip hop barra rap napoletano, mettiamola così. Mm-hmm. Qualcuno lascia il telefono acceso, virgolettato. Adesso facciamo un cartello, no, sarà il mio. Un cartello fuori, mettiamo phone not allowed. Bravo. Ammazza, ma è... Cazzo, cioè, faccio anche la pronuncia. Cioè, è buono per fargli i jingle, non so. Metti, se, sono un po' come il prezzemolo, lo metti un po' ovunque. No? Se c'è da vendere qualcosa, io lo vedo. In mente una battuta più breve, come il maiale che non si butta via niente. Il però, pane si butta via, ecco, basta. Vabbè, dovevamo tirar fuori, cioè, un po' lo spirito. Che, sì, perché questi pezzi sono stupendi, poi arriviamo noi, tac. Comunque non sono riuscito a contattarlo ancora. Devo cercare di contattarlo, che vorrei fare un'intervista anche con... Ma non ti rispondo al telefono. Non lo so. Ma che vuole questo? Non lo so. E magari, magari vedi il numero dal nord, dice, ma questo sarà uno che vende cose. Sarà. E che vogliono questi venditori. Poi che tu vendi a un napoletano ce ne vuole. No, comunque complimenti, complimenti. No, davvero, anche altri brani che poi metteremo nelle prossime puntate. Ma produce sempre... ancora? Se, cioè, non ho grandi notizie, però quasi, visto che settimana prossima intervisteremo queste etichette White Bump. Dunque sapranno qualcosa. Sicuramente sapranno qualcosa. E il prossimo brano, invece, prossima band, si chiama Voodoo Tapes, e anche loro mi piacciono molto. Loro, secondo me, sono dub. Non ce n'è. Sì, già il titolo che sto leggendo è un, anzi, sono quelle parole che si usano. Voodoo Tapes, tra l'altro, è c'è una cover del loro disco. È una sorta tipo, loro si dipingono come tipo una sorta di mago con il pentolone, muovono il, come si chiama, il mago, sì, ma uno stregone più, sì. Sì, beh, già il nome è Voodoo Tapes, dunque. Cioè. E loro praticamente nascono poi da quel gruppo che abbiamo ascoltato prima, che erano i BR Styles, che si erano sciolti. Quindi c'è questo collegamento. Non è che si fanno i riti voodoo a vicenda. Ok, d'amore d'accordo, adesso che si sono sciolti. Yeah. Comunque, ti volevo dire, giusto per cambiare, anche loro avremo ospiti nel nostro programma. Ah, bene. Io l'hai vista, mi sono sbattuto. Quest'anno mi sono proprio sbattuto. L'estate, diciamo che l'ha passata a cercare contatti a persone. Sto mimando quello che stiamo dicendo. Sbattuto, passata. Scusate, chi è che mi vede? Allora, quindi stasera sei Google Translate, sei Google Maps. Google Maps. Giusto. E poi sei anche quello tipo sottotitoli per non udenti. Fa parte dello stesso gruppo. No, fa più Antonella Clerici, no, che sta insegna a cucinare. Vabbè, alle persone. Ci stiamo avvicinando. Va bene, ci vedo bene con una parrucca bionda. Dici. Va bene, Antonellina, andiamo a ascoltarci allora il prossimo brano. Tonina. No, Antonina, no, dai, ti prego. È di Voodoo Tapes, Lyrical Painter Rhythm. Ho detto giusto? Sì. Chi lo sa? Chi lo potrà mai dire? Ascoltiamo. Thank you. Aia. Ma sì. Beh, io direi cartellino giallo. Sì, sì. No, non cominciamo. Ah, se... no, è vero. Qui, vero. Cioè, comunque, proprio... come suggeriva Daniele, effettivamente questo sembra più una base di un videogioco. Cioè, dicevo proprio nello specifico Need for Speed, in cui girate, non so, nelle serate autunnali in America con le luci, le ombre, i semafori. Perché no, Volevi dire qualcosa? No, stavo seguendo il suo discorso. Perché è una grande appassionata di Need for Speed, per quello. No, lei giocava qualcosa. Giocava a Need for Speed. Vedi? Vedi? C'è anche un'altra che giocatrice incallita. Cioè, capito? I maschi. No, no. Io ho giocato in Need for Speed per anni. Anche un altro che adesso poi ripresenteremo. Sì, infatti. Cioè, ce l'avevo anche nel buon Nintendo DS. Questo è un gradito ritorno, perché... Dalla faccia sembra che è felice, però invece non è felice. Salutiamo Felice, che... Ciao Felice. Certo che lo salutiamo. Ciao Fe. È stanco, diciamo, non è, e non salutiamo è... Fabio, dai. No, vabbè, ma lo salutiamo dopo, è arrivato. Vedi che fai lo spoiler, sei uno spoiler. Dai, sei. Ma lo vedi? Ah sì, Fabio, guarda, da quest'anno, visto che ormai ti hanno pronunciato, da quest'anno praticamente ci vedono su Facebook. Cazzo, quindi non pensano che sono alto, biondo, occhi azzurri. No, non possiamo più barare sulla Beh, tua... Beh, gli occhi, sono dai, fake. Gli occhi ci sono, Fabio. Vabbè, intanto che Fabio si prepara, perché sta preparando, diciamo, a riempire i polmoni per poi dopo parlare bene, perché... Ovvio. Quando ci vogliono, cioè, i polmoni devono essere preparati e pronti per fare quello che bisogna fare. Non so cosa stai dicendo, ma potrei andare avanti a parlare così per 20 anni, ma potrei anche smetterlo. Ma perché? Non lo so. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. È un'altra etichetta che viene da Bologna. Parlavamo prima. Questa qua è l'Efedrina, si chiama, Net Label. E il brano è tutto un nome strano, di Smoker, Bitnazark, non so come pronunciarlo. Cioè, in confronto il tuo inglese è perfetto. Cioè. Beh, ma secondo me questo qua non è inglese, dai. Ma non so, bolognese. Dici che è tipo la diretta Iolini. Bizentrack. Bizentrack, bravo. È stupato. Ma Bizentrack mi piace. Sì, ma sai, sì, che suona anche bene, no? Sì, suona anche bene come musica. Ma cosa sareste voi senza donne? Cosa sareste? Estinti, probabilmente. Sì, veramente. Vabbè. Nulla. Senti questa base sotto, intanto. Ti piace? Sembra Neffa. Sì, esatto. Vabbè, andiamo a ascoltare il brano. Sì, molto bello. Il brano questo di The Smoker. Com'è che si chiamava? Beats and Track. Va bene. Comunque, no. Anche lui forse avremo come ospite, quindi gli possiamo chiedere come cavolo si pronuncia. Beats and tracks for days, come on. Beats and tracks for days, come on. Beats and tracks for days, come on. to a horse move. Track like a jockey to a horse move. Track like a jockey to a horse move. Track like a jockey to a horse move. Track like a jockey to a horse move. Track like a jockey to a horse move. Abbiamo cambiato un po' genere, Tony, eh? Qua siamo andati sul... Che genere sarà? Funky house. Sì, sì, dai, dai, dai, un ci po' sta, French touch. Un po' French touch. Sì, ma proprio sin chiaro dei fine degli anni 90. Vabbè, quindi io direi che siamo tutti pronti per salutare il nostro Fabio. Ciao. Buonasera, Fabio. Buonasera a tutti quanti. Possiamo... E voce... anche molto istituzionale. Che voce sexy, Fabio. Ritorniamo... Ritorniamo alla vecchia prima... coppia Fabio e Mingo. È vero, è dall'anno scorso che non ci vediamo. Io prima ho lanciato un appello. Cioè? Voglio i maschi, un maschio figo alla... È arrivato? Alla, cioè, scusa, io chi sono? Adesso mi offendo come rappresentante degli uomini fighi. Io mi sto offendendo. Perché c'è il video che ti vedo. Cazzo, quest'anno mi fregano. Va bene, va bene, che ci racconti? Per ogni puntata, certo. E poi noi donne scegliamo il migliore che vincerà il più bello di Wolf Street. Ragazzi, abbiamo già vinto, ma che coppia che c'è? Adesso, sì. Ascolta, vogliamo parlare di qua, cioè, non lo so. Ci completiamo. Ragazze, entrate gratis a Radio Lupo. Me lo stai appoggiando. Easy. Preciso, ecco, quello che gli hai detto prima, perfetto. Perfettissimo, grandissimo. Vabbè, fa niente. Vabbè, ma di cosa stavate parlando prima? Ma del nulla misto col niente. Cioè, è un argomento serioso. No, in realtà devo dirti la verità. Quest'anno stiamo facendo un programma più impostato sulla musica. Quindi stiamo presentando un po' i vari brani, le varie etichette. Quindi i vari generi fuori. Musicali. No. Tu rivesti il ruolo di disturbatore. Io sono il minchione. Ecco, bravo. Bravo, vedi. Siamo in due allora. Quindi fate i... dunque io c'ho la testa di... cioè, sei due mie. Ragazzi, chiudiamolo qui il programma. Prima puntata, già fuori. Siamo a postissimo, direi. Però tu postissimo. Dovresti essere in mezzo, allora. Se vuoi. Vabbè, qua hanno studiato anche geometria, ragazzi. Io mi sono fermato alla terza elementare. Va io bene, la terza va bene, media. Ma... ha fatto le scuole alte, la ragazza. Allora, io anche direi... la sesta, la settima volta, ci stanno. Io direi che adesso ci ascoltiamo un altro brano, intanto vi libero, che vedo che state fremendo di andare a respirare aria buona, vi vedo, sì, lì vedo, che vedo, siete lì carichi e pronti. Cambiamo ancora etichetta, visto che adesso stiamo facendo tutto un giro di etichette diverse. Dove passiamo andiamo? Ancora in Germania. In posti caldi come al solito, devo beh, dire. Tu fai conto che il primo pezzo l'abbiamo messo dalla Siberia, quindi proprio... Siamo andati anche a destra. Destra. Con la Tesla? Con la Tesla. Quella è un'altra cosa. Questa è bella, però è divertente. Ma sotto qui... c'ho tutte le mie cose scritte. Guarda che lui è un regista serio, cioè... Passo passo a una scaletta, cioè non come noi che andiamo a braccio, cioè un po' così come capita, tanto al chilo. La battuta al passo passo con la scaletta è bellissima. Cioè, no ragazzi, mettiamo il pezzo. Il delirio, il delirio. No, stavo dicendo, l'etichetta è Brook. Brook. Come quello di Beautiful, Brooke. No? Brooke, è una comunque, Brook. Vabbè, ma si capisce, cioè... No. Beh, potrebbe anche essere uno per quanto ne sappiamo, no? Qualche so. Plot twist Mel potrebbe Brooke, potrebbe essere un Mel Brooke, sì. E il prossimo, gli artisti invece sono Electronic Gabriel Vittel. Io non c'entro niente, cioè. Perché? No, sembrava Electronic. No, Tronic. Alessandro Elettronico e Gabriele Vitello. Vitello, bravissimo. Cazzo. Infatti il prossimo pezzo sarà Tonnato. E il brano invece si chiama Face. Ma tu credi che le label ci chiameranno ancora? No, dopo questo intervento direi proprio di no. Però andiamo ad ascoltarcelo comunque, dai. Thank you. una svolta un po' più minimal, berlinese, deep, minimal, non lo so, chi più ne ha, chi più ne non metta. È proprio il genere che io amo anche qua. A me non dispiace, a me sì, non no, dispiace. So tu sei... Poi quella maglietta nera è normale che te. Beh, secondo me però la minimal, se va, se ascoltate in un locale, ma cioè è proprio è il massimo. Scusate la cazzata. Ci vorrebbe una, un intro con, presente la palletta quella nella, nel deserto là. Sì, è vero. Ogni qualvolta... Oppure devo portarmi, sai, quelle cose da lanciare, tipo il martello quello di gomma. Io non ho anche un arsenale di attrezzi. Mi volete di gomma. Bene, ragazzi. Comunque, questo qua è il brano invece di Max Cavallera, che non so chi sia, però. Cavallera. No. Cavallera. Cavallera. No, quello è di cantante spagnolo. No, è di Pantera, se non sbaglio. O di... No, non lo so di chi era. Di Pantera? Può di essere. Sepultura. Uno dei due, cavolo, che figura di cacca che sto facendo. Non ricordarmelo. Allora, guarda, ti tolgo dei dalle... Di Pantera. Ti tolgo dalle pass. Mamma mia, come parlo furbito. Sì. E passiamo subito al prossimo brano, alla prossima etichetta. Cambiamo ambito, cambiamo tutto. Intanto tornano i nostri supereroi qua dietro alle spalle. Vedo. Spero che facciano tutto bene in silenzio. Il vigile Fabio gesticola. Ma ho capito perché gesticola, ragazzi. Ho capito. E la prossima etichetta è la Monofonicos. Producono musica dalla Colombia, quindi cambiamo proprio ambito, passiamo in Colombia, caro Fabio, visto che sei tornato. Mi sa che è contento che passiamo in Colombia, Fabio, però... sono rientrato subito, infatti. Il genere della musica qua è proprio funky house, quindi ritorniamo un po' ancora sul genere della allora, musica. Allora, Columbhouse. Columbhouse, lo sapevo io, l'avresti detto. E il brano è di Bobby Marlini con Not a Winner. Qua voglio però il Google Translate veloce. Not a Winner... Non una vittoria, non no, vincitore, non vincitore. Meglio, meglio. No, scusa, meglio. Ho detto win. Io direi 6 meno. 6 meno. 6 meno. We'll be right back. con questo pezzo salutiamo Fabri. Ciao Fabri. Infatti sto cercando dove è Fabri. No, vabbè, più che altro perché è la musica più o meno che suona lui, quindi era per quello il discorso. E qui ci voleva una cubista. Vabbè, abbiamo cambiato genere. Quello che abbiamo, dai. Cos'è che succede? No, ce l'ho con lui. Ah, ok, ho capito, messaggio subliminale che 20 perché mancano 20 pezzi. Non è vero, no, bugia. Pezzi, no, però cioè, quindi per le 11:30 siamo ancora qui. Devi stare dietro, maiala. Maremma. Citazioni in casa. Va bene, va bene. Quindi stavamo dicendo, abbiamo ascoltato un brano dalla Colombia. Oggi abbiamo fatto proprio un giro del mondo. Siamo partiti dalla Siberia. Dalla Siberia, cioè davvero una cosa geograficamente anche interessante per chi ci ascolta. Io che ho paura dell'aereo, mi fai un gran piacere che giro il mondo. Il programma infatti si chiama Wolf Trips, quindi ti porta proprio in viaggio, giro, cioè. Fai un viaggio. Povero lupo. Che continua a viaggiare, ma quando è che finiamo il paese? Anche perché penso stia meglio in Siberia che in Colombia. Dipende da come tira l'aria, ecco, diciamo. Fabio, tu che viaggi ti fai? Ma quest'anno ho viaggiato poco, sinceramente. Ma non devi andare in vacanza adesso te? È una settimana, ma non penso che andrò via. Volevo andare, o a Praga o a Berlino, perché sai, una settimana, 2 o 3 giorni. A Praga parlavamo prima, giusto? Praga è bello. Praga io eviterei. Ragazzi, io a Praga gli ostelli. Gli ostelli li eviterei. Io a Praga ho lasciato il cuore. Sì, ma gli ostelli evitali. Come si chiama? Il cuore o il fegato? Tutte e due. Avevo 20 anni. Quando ho scoperto che a Praga la birra costava 50 centesimi, o forse 1000 lire, adesso mi ricordo c'era l'euro e l'euro, e da qui si capisce che ho un po' di anni, e l'acqua costava il doppio, ho fatto una settimana pazzesca. A morire male. Sì, sì, era più il bere che il mangiare che si faceva con gli amici. No, ancora adesso credo che la birra... Poi una sera siamo scappati dall'albergo, eravamo con la scuola, no? Anch'io, chi è che non è andato a Praga con la scuola? Anch'io sono andato a Praga con la scuola. Io sono stato 2 volte, ma quella volta è stata eccezionale. Siamo scappati dall'albergo, non lo fate, mi raccomando, Siamo scappati dall'albergo. Don't che try erano... this at non home. Fatelo. Erano tipo le 11 di sera quando i professori vanno a letto, no? Usciamo, poi chiamiamo il taxi, andiamo a ballare in questa discoteca di 5 piani con una statua in mezzo che lanciava i laser. Ah, ho capito qual è. Mi è stata raccontata da praticamente tutti i miei amici. È spettacolare, a parte che c'era dentro una popolazione di praghesi, per cui mi sono innamorato ogni 2 minuti. Sarà stata la birra, sarà stato l'emozione, il momento. Però io mi ricordo che Praga è la città dove ti vuoi divertire. No, immagino che in quella discoteca lì ci sia anche il DJ che fa il robot. No, ma veramente, non so che hanno sperimentato questa cosa qua. Che adesso no, non posso. Magari visto la discoteca sei così futurista. Vabbè, io posso proporre di andare a fare i viaggi con Wolf Trips. Io porto il prosciutto. Giusto. Beh, allora io direi che continuo col prossimo brano. Beh, prosciutto di Praga, no, ragazzi. Prosciutto di Praga, sì. Comunque l'anno prossimo, penso, prossimo viaggio vedendo, sì, allora l'anno prossimo magari un po' di più o Giappone o se no Nuova Zelanda. La butto lì. Ci sono dei ragni troppo grossi. Attenzione, perché c'è anche un bel giro che ha fatto un mio collega, che ha fatto Cambogia, Vietnam e Thailandia, ok. Sì, beh, è organizzato. Sì, sapevo già che volevi parare tu, però allora, è organizzato. Devo cercare le etichette della Cambogia, del Vietnam e della Thailandia. Sì, guarda che secondo me in 20 giorni lo fai. Sfacchini un po', però è bello. No, andiamo tutti noi di Wolf Trips, no? Io vado a Ibiza, scusa. Eccolo qua, il giovincello. Sì, ma Tony, dai. Ma sai che dopo... non puoi più fare... serate lunghe. Me ne sono già accorto. Hai un recupero più lungo rispetto ai 20, no? Non è vero, anzi. Vabbè, Fabio, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. E... qua passiamo sull'electro synth pop. Magari cosa tipo... stai dicendo? Il più classico dell'electro synth pop. Electro e synth pop. Sono due generi insieme. Ah, è un po' la supercazzola della serata che ci abbiamo. Bravissimo. Il brano è di Randy Hobbs. Con Vague. Aspetta, ve lo annuncio io perché qua l'inglese. Randy Hobbs, Vag. Mamma mia. We'll be right back. Sì, sto mixando. Sto usando il tracto. Comunque, va che nelle prossime puntate ti voglio vedere con la console qua. Va bene, sicuro. Sappillo. Che è successo? Fabio, quindi con che compagnia volevi volare, hai detto? Dipende dove vado. Cioè, non è che vado lì. Scusa, mi porti? Sì, ah, pensavo con chi volesse andare. No, la compagnia. Vabbè, la compagnia. Ma guarda che viaggiare da soli a volte non è male. Non è male, non è fai male. Bene, fai bene. E l'ultima vacanza l'ho fatta da solo. Ho sentito una frecciata io proprio che mi è partita da guaglietto. Cazzo, era Cupido. Adesso, adesso mi ritorna indietro tutto una mitragliata. Tra moglie e marito, non mettere il dito. Ma hai sbagliato la traiettoria. Se lo sono sposato io. Va bene, va bene. E apriamo l'ultimo pezzo, l'ultima parte di Wolf Trips. Cavolo, è già finito. No, ancora abbiamo un paio di brani. Due ore sono andate, dai, ci sta. Fabio è arrivato solo alla fine, porca miseria, mannaggia lui. Ha preferito il cibo a noi. No, ha fatto palestra, ha mangiato, si è dovuto fare anche la doccia. Io sono come i bambini, devo essere curato. Ha fatto palestra? Sì. Sì. È vero, guarda, questo qui è tutto l'addominale. Cioè, è inutile fare 6 addominali. È il maglio. No, allora, il maglio. Tutti stanno lì a fare 6 addominali. Ne fai uno, fatto bene. Cioè, la tartaruga è rovesciata e sei a posto, non ho capito. Sì. Diciamo che quando arriva lui si può aprire un altro programma. Ok, perfetto. Comunque, se vuoi imparare a fare radio, non guardare lui. Guarda lui e fai l'opposto. Sono la nemesi di ciò che dovrebbe essere una radio. E pensa che c'è un fratello bravissimo. Vabbè, ma hai imparato da me, che cosa vuoi dire? Salutiamo Felice. Voi sapete un aneddoto? Felice ha iniziato a fare radio perché da piccolini ci mettevamo con i registratori. Ti ricordi quei registratori piccoli? Sì. Registravamo le voci e facevamo i programmi che sentivamo nelle radio locali, ok? E lui si è preso bene una volta, due volte, tre volte, ha fatto il provino in una radio qua locale e poi ha iniziato tutto il suo iter. Però se io non compravo quel piccolo registratorino per fare le pirlate, io penso di avere ancora a casa la mia cassettina in cui io registro i suoni di casa mia. Io andavo in giro per casa a registrare i suoni, ma ho compreso lo sciacquone del cesso, perché è un suono di casa mia. Il tocco di classe è arrivato anche da lui. Ascolta, ma tu usi ancora lo scotch come si faceva una volta? Scotch? No, sì, per bloccare il nastro. Tu non sai. No, una volta quando volevi una canzone, adesso c'è internet, YouTube, c'è Shazam. Shazam, cioè sei tecnologico. Quando ero piccolo io, quindi diciamo 2 anni fa più o meno, tu avevi il tuo bel registratore a cassette, no? Prendevi l'audio cassetta, prendevi un pezzettino di scotch, lo mettevi nel mezzo della cassetta, quando partiva la canzone schiacciavi rec e la colla dello scotch puliva il nastro antecedente e registravi quello che andava in onda. Sì, quindi avevi tutte le canzoni con le voci dei DJ oppure mixate dalla radio. Questa anni e anni a stare davanti al tasto così, crack! Ah, ce l'ho adesso. Questo non lo sapevo, dello scotch. Io mi ricordo che cercavo una canzone dei Naftalina. E qui non so quanti possono conoscere, si chiama Se forse, è bellissima ragazzi, andate ad ascoltare su YouTube chi è punk rocker. Sono stato tipo una settimana ad ascoltare la radio pronto così col dito, avevo 15 anni, quindi non ho il tempo da perdere. finché non è passata. No, è passata acido di Prozac, però fa niente, non è brutta. Dai. È stata una passata di naftalina. Sì, vabbè, lo sapevo Tony che avresti tirato fuori la tua perla. E andiamo ad ascoltare gli ultimi due brani della puntata. Sì, ma uno alla volta però. Uno alla volta. Perché io non ce la faccio. Uno in canale sinistro e uno in canale destro. In stereo. L'etichetta è Subbass. Subbass si chiama. E ha fatto questo compilation che è chiamata Ethno Step. Poi, secondo me... È tedesca, no? No, in realtà è di Londra. Londra? In zona di Londra. Ho detto male, no, perché... Avevi già visto qualcosa del genere? Sì, sono andato a cercare. Sulla sua agendina? Sì, sì, vedi, questo no, è... No. È il mio libro nero, il mio libro nero. Allora dobbiamo stare attenti, eh. Siete tutti già schedati, mi spiace. Ah, sì, picchi. Loro sono i Secret Archive of the Vatican, cioè i segreti. Gli archivi segreti del Vaticano, ok. Una roba leggera, eh? DJ Francesco. E il brano si chiama Green Destiny. Bello scansore. Qua siamo proprio rave oggi. Sì, sì. Sì, insieme a Ronnie Sykes. Prodigy, vero, avrei detto. Vero. Prodigy, no, uguale. Io avrei detto Prodigy. Ronnie Sykes. Mi viene in mente... My bitch. E invece sono i Secret Archive of the Vatican. A me viene in mente. Quindi vuol dire che il Vaticano c'è... Cioè, questi sono i segreti della Chiesa, bello. Sai, c'ha dei bei segreti, però, certo, quando vai in Vaticano c'è quella porta che non puoi aprire, che aprono ogni X anni. E c'è dentro sto qua? Dentro c'è questa musica, io vedo, cioè, non so, Padre Tuck che mixa. C'è Padre Ronnie Sykes anche. Grande. Vabbè, e poi aspetta, poi danno l'ostia a tutti quelli che ballano normalmente. Ma che non guarda ballano. Che anche nei rave lo fanno, Ma va? Sì, sì, e danno c'è... l'ostia. Ma modificata, ostia. Ragazzi, modificata. Ci siamo presi una bella scomunica. Sì. Vabbè. Questa parte del podcast mi sa che non potrò pubblicarla, devo mettere mi sa proprio di no. Bippo un po' di roba. Va bene. Andiamo a ascoltare l'ultimo brano. Comunque bisogna anche lasciare spazio agli altri. Ma scusa, dopo cosa facciamo dopo l'ultimo brano? Poi staremo qua un po'. Faremo i saluti, poi staremo qua. Allora cosa li salutiamo a fare? Ufficialmente li salutiamo. Facciamo poi... un dopo after. Sì, facciamo un after, sì. Dai. Però ti dicevo, c'è questa compilation che si chiama Ethno Step, no? Come? Ethno Step. Ah, ho capito Tetto. Anch'io. No, secondo me ci sta, ma perché sai perché vedi? Da lì a là, no? Quando arriva la voce, cioè ci sono le frequenze, no? E quindi cambia interferenze un po'. Interferenze dei microfoni, chiaro. Certo. Però ci sta perché vedi, c'è questi suoni etnici con poi un po' di drum and bass, un po' di roba elettronica. Ci sta, non era male. Anche magari qualche vocina ci stava bene, Magari sì, fatti la tu. Avevano finito i soldi. Il budget era quello. Ha finito i campioni. Per 3 euro arrivo io, tranquilli. Andiamo a ascoltarci l'ultimo brano, che è di Molfarsky, Chaos Ark. L'ho detto giusto? Ark, stavolta l'hai azzeccata. Ark l'ho detto giusto, dai. Ci sta. Sempre dell'etichetta questa qua su Bass che stavamo parlando prima. E niente, dai, concludiamo così. Poi ci sentiamo per i saluti. Va bene. ti sei medesimato però nel centro sociale. Io l'avevo detto per scherzare, però cioè sei lì con la cartina, con le cose. Io nasco nei centri sociali, quindi è un po' come tornare alle origini. Vabbè, vabbè. Quindi ti identifichi con la canzone di... No, che parlava della, che la sua sociale. Testa è un gigantesco centro Coma sociale. Cose, ragazzi. Coma cose, bravo. Se parlavano di Pordenone, io mi riferivo ovviamente a Coma Cose. Giusto. Che ho sentito live a Voodoo Fest quest'anno, super. Ma secondo me la mia testa è un po' come una stanza vuota, cioè nel senso non c'è niente dentro, ma si può anche capire. Neanche la luce c'è. No, no. il buio totale. Vabbè, niente, abbiamo passato due ore in compagnia. Prima puntata. Sì. Tra Neurone versus Alien. Tra l'altro volevo salutare un amico storico della radio, un amico storico che è qua di fianco, qua non lo vedete. Ma magari sì, no. No, è fianco. Sì, dai. Sì, sì, sì. Col bimbo. Anzi, sentiamo. Peppe, salutaci. Ciao. Oh. Ciao, Pe. Ciao De, anche la De. Cosa ciao. Cosa ciao Ale, ciao Kiko. Non lo so. C'è lui. Non lo so. Vabbè. E niente, io direi che è ora di fare i saluti di... Però quelli fittizi. No, li facciamo reali, diciamo, con Wolf Trips. Ci sentiamo settimana prossima, sicuramente. Dalle 20. Quindi niente, saluto Cri. Ciao. Fabio, non so se si intravede. Ciao ragazzi. Saluto Tony. Ciao ragazzi. No, ho avuto un attimo di esitazione, l'ho fatto apposta. Detto Psycho. Ma perché Psycho? Comunque, cioè, saluto anche Daniele che lo è so qua. Non so perché Psycho. In prova, però magari ci riascolteremo venerdì prossimo. No, raga, la patto, io vengo se lui c'è. A posto. Va bene. E poi niente, saluto un po' tutti quelli che ci hanno ascoltato, scritto e pulito. Oh? No, una cagata. Cos'è che è? Non ho capito. No, non l'ho allora, scritta. No, c'era un gruppo negli anni 80 che si chiamava Scritti Politti. Tu hai detto scritto Politto. Fai le battute troppo difficili. Ma scusami, ma Daniele non ci seguirà per qualche puntata? Sì. Lui sta quindi qua. Quindi per qualche puntata c'è Fabio. Quindi per qualche puntata ci sono. Io adesso mi metto qua, mi faccio una sagoma dentro nel fono assorbente e sto qua. Ricordiamo i podcast che chi ci vuole sentire. Ascolta, il patto è questo. Se non c'è lui, mi portate una birra. Va bene. Andata. A posto siamo. La Cri non è d'accordo, vuole due di birra. Bravo. A posto siamo. Va bene, dai, vi saluto e ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.